Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La letteratura classica è densa di capolavori epici, dai poemi omerici, l'Iliade e l'Odissea, all'Eneide di Virgilio. Il momento fondamentale di questo genere di racconti è indubbiamente il duello. I campioni dei due eserciti avversari si affrontano, l'uno contro l'altro, soli, faccia a faccia. Si guardano negli occhi, misurano il rispetto reciproco, il coraggio, le paure, la determinazione. Attimi di sospensione cristallizzati nel tempo che sembrano eterni. E poi la battaglia. La passione romantica per i duelli e per gli scontri epici è arrivata fino ai giorni nostri. E le forme contemporanee di narrazione ne sono assolutamente pervase. Cinema, letteratura, fumetti abbondano di questo tipo di ispirazione, spesso rivestita di un potente valore simbolico. No, non ti ucciderò. Voglio che tu mi faccia un favore. Devi parlare di me a tutti i tuoi amici. Ma chi sei? Sono Batman. La presa che questo tipo di sentimento ha sul pubblico non si misura però solo attraverso la narrativa. La gente ama i grandi scontri e i grandi duelli, in ogni campo. Nella politica, ad esempio. Between the Republican nominee, Senator John McCain of Arizona, and the Democratic nominee, Senator Barack Obama of Illinois. O nello spettacolo. And the winner is the Hurt Locker. Ma l'ambito in cui i duelli si trasformano subito in epica popolare e suggestionano le grandi folle è indubbiamente lo sport. Lo sport non sarebbe così popolare senza le grandi rivalità che l'hanno attraversato nel corso della storia. Rivalità individuali e di squadra. È il sale dello sport, la sua bellezza, il suo fascino. Oggi vi raccontiamo una di queste storie epiche, una rivalità straordinaria che per nostra fortuna è tutt'altro che conclusa. 6 luglio 2008, Londra. Campo centrale di Wimbledon. Si sta per giocare la finale dei Championships, il torneo di Wimbledon, il terzo slam dell'anno, l'unico sull'erba. L'uno davanti all'altro per il terzo anno consecutivo stanno per affrontarsi il numero uno e il numero due del mondo. Sono i nostri due personaggi di oggi e siamo al punto più alto della loro rivalità. Chi ama e segue il tennis e lo sport avrà già capito di chi stiamo parlando, noi però ve li presentiamo uno alla volta. E partiamo dal numero uno al mondo, che quel 6 luglio del 2008 cerca di portarsi a casa il sesto Wimbledon consecutivo. Naturalmente è il grande Roger Federer. Roger Federer. Incredibile ma vero. Da archiviare. Colpo impossibile. Lui getta la racchetta e va a casa, perché a questo punto cosa posso fare se non venire a stringerti la mano e a dirti: grande signore del tennis, a te rendo omaggio. Quella che avete sentito è la voce incredula di un telecronista della televisione svizzera che nel 2002 si trova a commentare i quarti di finale del torneo di Basilea, un prestigioso torneo sul veloce che si gioca proprio in casa di Roger Federer. Nei quarti Roger, che ha solo 20 anni e non ha ancora iniziato a dominare il tennis mondiale, affronta un altro giovane di belle speranze, di un solo anno più grande, l'americano Andy Roddick. Roger lo batte 7-6-6-1 in poco più di un'ora, ma non è questo il dato rilevante. Quello che conta è un colpo straordinario che lo svizzero estrae dal cilindro. A metà del secondo set, Roddick prende la rete e su un pallonetto corto di Roger fa uno smash. Roger intuisce la direzione, salta e con un altro smash da fuori campo infila l'americano. Il pubblico esplode. Questo penso che sia il colpo più spettacolare che io abbia mai visto. Guardate, non è nemmeno immaginabile. Roger Federer nasce a Basilea l'8 agosto del 1981. Suo padre, Robert Federer, è svizzero, sua madre, Lynette, è sudafricana. I due genitori lavorano entrambi nel settore farmaceutico e si sono conosciuti durante un viaggio d'affari. Roger ha una sorella di soli 20 mesi maggiore di lui, Diana, che fa l'infermiera. La loro infanzia, nella piatta provincia di Basilea, è serena e tranquilla. Un'infanzia già piena di sport. I miei genitori giocavano a tennis nei weekend a Basilea. Spesso mi portavano con loro. Avevo la mia racchetta, la mia palla, e ogni tanto mi facevano giocare e mi piaceva. Così, raggiunta l'età giusta, iniziai a giocare. Ma giocavo anche a calcio e giocavo bene. Così dovetti scegliere quando avevo 12-13 anni. Avevo chance di diventare professionista in entrambi gli sport, ma non potevo praticarli tutti e due. Per fortuna sua e dei suoi tantissimi tifosi, Roger sceglie il tennis. A 13 anni è già campione nazionale. I genitori hanno con lui un approccio perfetto sul tema sportivo. Mai invadenti, mai fanatici, lo supportano in tutto e per tutto, ma pretendono che non trascuri gli studi. Il giovane Federer cresce guardando con grande attenzione i migliori tennisti del mondo, studiandoli con scrupolo. Quando era più giovane, ammiravo molto Boris Becker. Poi, guardando il tennis con maggiore attenzione, cominciai a tifare per il suo avversario, Stefan Edberg. E infine, il mio ultimo idolo è stato Pete Sampras. Poi sono diventato professionista anch'io e, ho smesso di avere degli idoli. Pete Sampras, uno dei più grandi tennisti di sempre, soprannominato King of Swing. Sampras ha per diversi anni detenuto una serie di record impressionanti. 14 slam vinti, primato assoluto. 7 Wimbledon conquistati, di cui 4 consecutivi. Nel 2001 Pete va a caccia del quinto consecutivo, l'ottavo complessivamente. Agli ottavi di finale il tabellone gli mette davanti un giovane tennista di 20 anni, da tutti considerato un talento incredibile, ma ancora acerbo e troppo indisciplinato in campo. Racchette rotte, concentrazione altalenante, liti con arbitri e avversari. Il suo nome è proprio Roger Federer. Rino Tommasi, giornalista fra i massimi esperti in Italia di tennis, ricorda così il giovane Federer. Io non l'ho mai visto giocare da bambino, ecco, sì, quando l'ho visto giocare era già 17-18 anni, ecco, da bambino, quando lui rompeva le racchette, eccetera, e faceva altri capricci, io a quell'epoca non l'ho mai visto giocare. Quindi da quando io l'ho visto si è sempre comportato bene, però mi raccontano fonti attendibili che prima, insomma, qualche capriccio lo facesse. Fino ai 20 anni, infatti, Federer non raccoglie quanto il suo talento teoricamente gli permetterebbe di fare. Per i suoi tifosi di oggi potrebbe sembrare assurdo, ma da giovane il talento di Basilea è scomposto e capriccioso, e questo atteggiamento limita il suo tennis. Inoltre il suo rovescio, giocato quasi sempre con il taglio in back, lo limita fortemente, e Roger non sembra ancora avere la costanza per migliorarsi. Ma quando in quel 2001 si trova davanti Sampras, il re di Wimbledon, in lui scatta qualcosa. Sì, l'erba è la mia superficie preferita. Avevo vinto Wimbledon nelle categorie giovanili. Amo quel rimbalzo della palla, la velocità e quell'atmosfera. Sampras non ha mai affrontato lo svizzero prima di quel momento e il match non sembra impensierirlo più di tanto. Avevo sentito del suo modo di giocare, mi avevano parlato del suo talento, ma la cosa non mi toccava più di tanto. Sampras però è il primo ad accorgersi del feeling tra lo svizzero e il centrale di Wimbledon, e quando se lo ritrova davanti al di là della rete non ci capisce più nulla. Ricordo quel pomeriggio come un incubo. Ero entrato in campo molto concentrato e abbastanza sicuro. Wimbledon era il mio torneo. Non avevo mai incontrato Roger prima e rimasi impressionato dalla rapidità con cui leggeva il mio servizio. Io battevo e lui era già nel punto giusto per rispondere. E poi mi fece di tutto: serve and volley, passanti, back velenosi, e in quasi 4 ore mi fece fuori. Avevo Sampras, uno dei miei idoli, sul mio stesso campo, ed era il centrale di Wimbledon. Era incredibile. Sapevo che se fossi partito bene, se gli avessi impedito di scappare all'inizio, me la sarei giocata. Federer butta giù il re dal trono. Ha 20 anni, è il numero 16 del mondo. Ha dimostrato a tutti quel che è in grado di fare. Sampras a fine anno si ritira. Il tennis va alla ricerca di un nuovo re. Appena Roger riesce a calmare il suo temperamento, il suo talento incredibile esplode definitivamente. Sistema il rovescio, porta gli altri colpi a un livello mai visto, inizia a vincere e non si ferma più. È il 2003. È il 5 luglio del 2003. Due anni dopo aver dato una spallata al re di Wimbledon, Pete Sampras, Roger Federer si siede sul suo trono. A 22 anni vince il primo Wimbledon sconfiggendo l'australiano Park Philippoussis in 3 set. In tutto il torneo Roger perde un solo set e dimostra una superiorità impressionante sull'erba. Prima di Wimbledon, infatti, una sola settimana prima, ha vinto un altro torneo sull'erba, quello di Halle, in Germania. Sui campi verdi Roger sembra come nel giardino di casa ed è destinato a iniziare una striscia di vittorie impressionante. I suoi avversari, che lo vedono arrivare al vertice in quel 2003, ne sono impressionati. Sentiamo qualche commento dei suoi principali rivali, iniziando dal russo Marat Safin. Mi sembra semplicemente uno dei migliori di tutti i tempi. Ogni colpo fatto da lui sembra facile e fa sembrare scarsi tutti i suoi avversari. Lo spagnolo Carlos Moya. Lo guardi giocare in televisione o dal vero? E ti sembra che il tennis sia uno sport facilissimo, perché si muove talmente bene che tutto sembra uno scherzo. L'americano Andy Roddick. Ho giocato con alcuni dei migliori tennisti di sempre, come Agassi e Sampras, ma giocare con lui è molto più difficile. È impressionante. Anche l'australiano Rod Laver, l'ultimo tennista ad aver realizzato il grande slam da professionista nel 1969, da molti considerato il più forte tennista di sempre, è stupefatto dal talento di Roger Federer. È un atleta strepitoso, non ha punti deboli, gioca bene in tutte le zone del campo, inoltre è un uomo intelligente e sensibile. Non vedo come si possa battere. Nel 2003 Roger vince, anzi stravince anche il Master, distruggendo in finale Andrea Agassi, cui vengono lasciate poche briciole. Nel 2004 le briciole se le spartiscono i suoi avversari lungo tutto l'anno. Roger vince 3 tornei dello Slam su 4, tra cui il bis a Wimbledon. Perde in tutto 4 partite. Vince anche il Master. Sull'erba è invincibile, sul cemento e sulle superfici veloci anche. Solo sulla terra fa vedere qualche crepa e infatti il mitico Roland Garros gli sfugge. Ma complessivamente sembra che nel mondo del tennis sia sbarcato un marziano. Ora, quando uno sportivo domina in maniera così netta la sua disciplina, giornalisti ed esperti si fanno due domande. Si chiedono se sia o meno il migliore di tutti i tempi. Si chiedono se in effetti sia lui il dominatore ad essere così grande o siano gli altri, i dominati, a essere mediocri e inferiori alla norma. Rino Tommasi fa una precisazione sul primo interrogativo che è tutt'altro che ovvia. Come si fa a parte il fatto che secondo me il migliore di tutti i tempi non c'è? Perché l'evoluzione del tennis, dello sport, delle racchette, di tante altre situazioni non consente di paragonare atleti o campioni che sono vissuti in epoche diverse. Dico, come si fa a dire che Federer è il migliore di tutti i tempi se non siamo nemmeno sicuri che Federer sia il migliore di questo tempo? Precisazione legittima. E fino ai primi mesi del 2005 sembra una puntualizzazione che non può riguardare il grande Roger Federer. E invece, come spesso accade, il destino gli fa incontrare qualcuno in grado di intaccare il suo dominio. Qualcuno in grado di arginare il suo regno e di ambire a condividerlo con lui. Qualcuno, in poche parole, che ha le qualità per creare con Roger una rivalità degna di questo nome. No, non c'è dubbio che queste rivalità giovino ad entrambi i protagonisti. Quindi voglio dire, come Coppi ha avuto bisogno di Bartali e Bartali ha avuto bisogno di Coppi. Tutta la storia delle grandi rivalità sportive soprattutto impostate su, imperniate su due grandi campioni, uno deve dire grazie all'altro e viceversa. E dopo aver dominato l'inizio della stagione 2005, Roger Federer, nel torneo Master Series di Miami, si trova davanti in finale un ragazzino di 18 anni. Ha un look stravagante, pantaloni a pinocchietto sotto il ginocchio, maglietta senza manica da bullo, bicipiti himalayani, capello lungo. Viene dall'isola di Maiorca, da Manacor. Il suo nome è Rafael Nadal. Rafael Nadal. Ed è destinato a diventare il nemico numero uno di Roger Federer. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati sta raccontando la storia di una rivalità sportiva. Non una rivalità qualunque, ma forse la più grande degli ultimi anni. Parliamo di tennis. Parliamo del re del tennis, Roger Federer, e del suo straordinario rivale, Rafa Nadal, che nel 2005, a soli 18 anni, gli contende la finale del torneo Master Series di Miami e gli fa capire che dopo due anni di dominio incontrastato, la situazione è destinata a cambiare. Rafael Nadal e Roger Federer si erano già affrontati nel 2004. Rafa aveva 17 anni, ma era già il numero 54 del mondo. Roger il numero 1. Il torneo, sempre quello di Miami. Roger entra in campo distratto e poco motivato, convinto di sbarazzarsi in fretta di quel ragazzino. Perde 6-3-6-3. Ma non ne fa un dramma. È una delle quattro sconfitte che totalizzerà alla fine di un anno straordinario. Nella finale del 2005, invece, Roger entra in campo molto più attento. Non vuole essere sorpreso da quel diciottenne combattivo, che però parte fortissimo e lo mette sotto 2-7-0. All'epoca le finali dei Master Series sono 3-5. Nel terzo, Roger va sotto di un break e sembra spacciato, come ricorda Nadal. Beh, ero convinto di averla portata a casa. Due set di vantaggio e un break nel terzo. Ma lui è un campione straordinario e io allora ero inesperto. Improvvisamente ha cambiato marcia e ho perso. Ma da quel match ho capito che la mia carriera sarebbe cambiata. Federer vince in 5-7. 2-6, 6-7, 7-6, 6-3, 6-1 il punteggio finale. Roger comincia a prestare attenzione a quel ragazzino terribile. Rafa Nadal nasce a Manacor, nella zona orientale dell'isola di Maiorca, a 50 km da Palma di Maiorca. Siamo nelle Baleari. Uno degli zii di Rafa è Miguel Angel Nadal, difensore del Barcellona e della nazionale di calcio spagnola. L'altro è lo zio Tony, un nome che oggi suona assai familiare agli appassionati di tennis. È lui che, quando Rafa ha 3 anni, gli fa prendere in mano la prima racchetta e che diventa il suo coach. Rafa era molto dotato sin da piccolo, era un coordinato naturale, quindi penso che sarebbe diventato un campione anche in altri sport. Ho iniziato ad allenarlo quando era molto piccolo e ho cercato di inculcargli principi molto saldi, anche sul piano etico, valori come la lealtà e il rispetto. La leggenda vuole che lo zio Tony, quando Rafa era ancora un ragazzino, gli cambi la mano con cui impugnava la racchetta, spingendolo a giocare con la sinistra, con la motivazione che i mancini sono più pericolosi e ostici. La presa mancina, unita al tremendo rovescio bimane e alla rotazione impressionante che Rafa imprime alla pallina sul dritto, lo rendono un giocatore letale sin dai primi tornei. Rafa entra nei primi 100 del mondo nel 2003, quando ha 16 anni, e supera 2 turni a Monte Carlo e 3 a Wimbledon. La scuola spagnola, che vanta giocatori importanti come Juan Carlos Ferrero e Carlos Moya, spera di aver trovato un nuovo campione. C'è un aneddoto divertente che prova come Rafa sia una sorta di predestinato. Risale al 2001, quando il tennista spagnolo ha solo 14 anni. In quell'anno, Pat Cash, tennista australiano da poco ritiratosi, vincitore di Wimbledon nel 1987, viene invitato a Maiorca per un'esibizione. Dovrà giocare contro un'altra vecchia gloria, Boris Becker. Si festeggia l'inaugurazione di un nuovo centro d'allenamento, all'avanguardia in Europa. Il palazzetto principale è stracolmo di gente che vuole vedere i due vecchi campioni, come ricorda Pat Cash. C'era un sacco di gente. Già un paio d'ore prima del match, incredibile per un'esibizione. Poi a un'ora dall'inizio viene da me l'organizzatore e mi dice: Boris ha perso l'aereo. Gli organizzatori però non vogliono mandare a casa tutta la gente. C'è comunque Pat Cash. Decidono di mandare in campo contro di lui il miglior talento dell'isola, un 14enne di cui si dice un gran bene. Gli organizzatori pensano che così la gente si divertirà e per il ragazzo sarà comunque emozionante. Mi dissero che avrei giocato contro un 14enne del posto, uno in gamba. Ho pensato, ok, lo farò palleggiare un po', faremo la partita. Cercherò di fargli fare un po' di punti per dargli soddisfazione davanti alla sua gente. Mi portarono davanti questo ragazzino timido e imbarazzato, ma dal gran fisico. Si chiama Rafael Nadal, mi dissero. Beh, non vidi palla. Rafa cancella Pat Cash con una facilità disarmante, dimostrando che sulla terra battuta, già a 14 anni, è un fenomeno. Se ne accorge anche Roger, 4 anni dopo. Nel 2005 lo svizzero tenta l'assalto al Roland Garros, l'unico slam che gli manca. Sulla sua strada trova Nadal in semifinale. Vince lo spagnolo in 4 set. Se va en la derecha de Federer, ha ganado el partido Rafa Nadal. E Rafa vince anche il torneo, il suo primo slam. Compirà 19 anni 2 settimane dopo. Inizia la rivalità più bella della storia del tennis. I due negli anni successivi si spartiscono tutto. Rimangono ai primi 2 posti per 4 anni, cosa mai successa nella storia del tennis. Per un po' la situazione rimane questa. Roger domina sull'erba, Rafa sulla terra, sul cemento si alternano. Dal numero 3 in poi è come se fosse un altro sport. Si incontrano spessissimo Roger e Rafa, sempre in finale, perché i tabelloni del tennis sono fatti così. Numero 1 e numero 2 si trovano solo in finale. Alcune di queste finali sono passaggi chiave della loro rivalità, come dice Rino Tommasi. Poi si vogliono cercare degli episodi che hanno contribuito, che hanno indirizzato questa rivalità in un senso piuttosto che in un altro, credo di poterli individuare. In una famosa finale degli internazionali d'Italia, al Foro Italico, nella quale Nadal ha battuto Federer dopo aver annullato 2 match point. Sono convinto che la storia della loro rivalità, soprattutto per quanto riguarda la superficie in terra battuta, poteva essere diversa se Federer fosse riuscito a trasformare uno dei 2 match point che ha avuto in quella circostanza. L'altro episodio è stata la finale di Wimbledon, nella quale Nadal ha battuto Federer. È il match da cui abbiamo iniziato, la partita delle partite, che sarà definita la più bella di tutti i tempi. Qualunque sarà l'esito, è chiara una cosa: il destino ha messo sulla strada di Re Roger il grande Nadal, ma in questo modo ha reso ancora più importanti i suoi successi, cancellando per sempre l'accusa di dominare il tennis in un periodo in cui non ci sono avversari. Tra poco Destini Incrociati tornerà a Wimbledon il 6 luglio del 2008 per seguire la finale tra Roger Federer e Rafael Nadal. Destini incrociati. Oggi Destini Incrociati a Londra. per l'esattezza a Wimbledon, una zona periferica della city inglese a circa 10 km dal centro. Qui c'è uno dei tennis club più famosi al mondo, l'All England Club, dove ogni anno si giocano i championship, meglio noti come torneo di Wimbledon o semplicemente Wimbledon. È uno dei quattro tornei del grande slam di tennis, l'unico sull'erba, il più prestigioso. Nel 2003 lo svizzero Roger Federer ha trasformato il centrale di Wimbledon nel suo giardino di casa, iniziando una striscia positiva impressionante. Per 5 anni di seguito ha trionfato. Da 5 anni è imbattuto. Davanti a lui, in quel 2008, il suo grande rivale, Rafael Nadal, proverà a detronizzarlo. Ecco, questa ha dato una svolta importante alla loro rivalità, perché si pensava che Nadal potesse battere Federer solo sulla terra battuta, e il momento in cui Nadal è andato a battere Federer nel suo giardino preferito, cioè quello di Wimbledon, e allora la situazione è cambiata. Ha ragione Rino Tommasi. Quando Federer e Nadal si ritrovano per la terza volta consecutiva, l'uno davanti all'altro, nella finale di Wimbledon, lo svizzero, che aveva vinto le due precedenti, parte favorito. Poco importa se qualche mese prima al Roland Garros, l'unico slam che nel 2008 ancora mancava, Roger, Rafa avesse distrutto lo svizzero con un parziale mostruoso di 6-1, 6-3, 6-0. Una batosta durissima, come ricorda ancora Tommasi. Ricordiamoci che c'è stato un episodio nella rivalità Federer-Nadal, una finale del Roland Garros, nella quale Nadal ha vinto in modo imbarazzante, 6-2, 6-4, 6-2, 6-3, 6-0, una cosa del genere. In effetti in quell'anno si comincia a parlare di complesso Nadal per lo svizzero, che tutte le volte che si ritrova il mancino di Manacor davanti va in tilt. Ancora Tommasi precisa che non si tratta solo di una questione psicologica. È una questione anche tecnica, non soltanto complesso psicologico, perché non c'è dubbio, insomma, che il gioco di Nadal, in particolare volendo analizzare colpo per colpo quella rotazione mancina sul dritto di Nadal che dà fastidio al rovescio di Federer, il rovescio di Federer è un grande colpo, ma non è il colpo più sicuro del suo repertorio. Quindi c'è una situazione tecnica alla quale, naturalmente, sulla quale ha inciso anche una situazione psicologica, però in partenza c'è una questione tecnica. Anche il gioco di Roger sembra fatto per dar fastidio a Rafa, con quelle continue variazioni di ritmo, le imprevedibili accelerazioni, le trovate geniali. Lo svizzero fa male a Nadal quando gioca a briglia sciolta, per la gioia degli appassionati. Rafa e Roger, tra l'altro, sono anche amici. Non si frequentano assiduamente, ma quando il calendario lo permette, trascorrono insieme del tempo. Roger ha ospitato un paio di volte Rafa e zio Tony sul volo charter con cui è solito spostarsi insieme alla moglie Mirka e al suo staff. Rafa l'ha invitato a Maiorca e si dice l'abbia portato a pescare. E come in tutte le grandi rivalità, le più epiche, quelle da romanzo popolare, i due contendenti sono da molti punti di vista l'uno l'opposto dell'altro, come ricorda Vincenzo Martucci, giornalista della Gazzetta dello Sport. Grandi rivali che rinverdiscono le grandi rivalità del tennis. In realtà Federer sulla terra rossa perde quasi soltanto contro Nadal. Considerazioni fatte anche da Bud Collins, esperto del Boston Globe. Guardando Federer, viene da pensare: è così che si gioca a tennis. D'altra parte invece c'è Nadal che gioca in modo completamente diverso. Colpisce di mancino con il suo poderoso top spin, rimane sulla linea di fondo e continua a colpire, a colpire, a colpire, a colpire, a colpire, ed è così potente. It didn't work out with me and your mom, but yo, push come to shove, you was conceived in love. So if the world attacks and you slide off track, remember one fact, I got your back. Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you, just me and you. Against the world. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. A Wimbledon, quel pomeriggio, succede di tutto. Pur essendo sull'erba, Nadal parte a razzo. Vince i primi 2 set. Poi Roger torna in partita. Si aggiudica il terzo. Il quarto va al tie break. La partita intanto viene sospesa per pioggia. Al rientro in campo, nel tie break, Rafa ha un match point. Può detronizzare il re, che però dà dimostrazione della sua classe incredibile. Il tie break se la giudica Roger, si va al quinto. Qui i servizi la fanno da padroni. Il match viene nuovamente sospeso per pioggia. Si va per le lunghe, 4 ore e 48 minuti. Al terzo match point, per 9-7 al quinto set, Rafa porta a casa il titolo. Rafa ha vinto in casa del rivale. Due settimane dopo gli soffia la prima posizione. Rimane al primo posto un anno esatto, un anno in cui batte Roger in un'altra epica finale agli Australian Open. Poi nel corso del 2009 accade il contrario dell'anno precedente. A Roland Garros, dove era lui il re da 4 anni, perde malamente al terzo turno. Roger gli ruba lo scettro e conquista il 14° slam, andando a eguagliare il record di Sampras e conquistando l'ultimo major che gli mancava. Poi vince il 6° Wimbledon, mentre Rafa si infortuna e scivola al 4° posto del ranking. Federer vince anche gli Australian Open 2010, in attesa del pieno recupero del rivale. No, non c'è dubbio che queste rivalità giovino ad entrambi i protagonisti. La storia delle grandi rivalità sportive, soprattutto imperniate su due grandi campioni, uno deve dire grazie all'altro e viceversa. Ha ragione Rino Tommasi. Per chi ama il tennis e lo sport in generale, è fondamentale che questi due straordinari atleti siano presenti entrambi nella stessa epoca a darsi battaglia. La speranza di tutti è che questa rivalità possa durare il più a lungo possibile. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.